sbagliare i fondi. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Dice, hai fatto tutto questo, però fai le primarie anziché le preferenze. Io preferivo le preferenze. Oh, vabbè, ragazzi, chiamate Goldrake. Chiamate Goldrake. La legge italiana, la domanda finale di Cazzullo era: più di così non poteva arrivare. Lo voglio dire a tutti: io non ci ho scritto Giocondoli in testa, l'ho imparato fin da bambino. E al momento opportuno lo dimostrerò, nel senso che giocheremo all'attacco. Allora, cari italiani, il dilemma è questo: Goldrake o Giocondor? Questa ormai la politica italiana è ridotta a chiedersi questo. Cosa preferite, l'alabarda spaziale di Goldrake o Giocondor? Non so come colpiva Giocondor, qual era la sua arma. Beh, Giocondor non aveva... era un po' un piangine, volava. Il becco, forse. Chi lo sa? Comunque, la politica italiana si può riassumere per metafore, per carità, così... In questo venerdì, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, Peter Mescapè in regia. È venerdì, fateci sapere cosa state facendo, cari italiani. C'è anche il numero per i vostri messaggi, lo sapete, 349-238-6666. Questo è 24 mattino, siamo qui fino alle 9, il Parlamento può aprire. Mettiamola la barda spaziale un attimo dietro lo sgabuzzo. E salutiamo, intanto voglio salutare Silvia Brasca, lì la milanista. Buongiorno. Silvia Brasca, l'ho provocata un po' così, la milanista Silvia Brasca, ieri. Ecco, ciao Alessandro, ciao. Ciao. Senti che freddezza, mamma mia, avessi detto delle cose terribili, la milanista Silvia Brasca, qual è il problema? Vabbè. Eccola. Non risponde alle provocazioni. Okay, no, ma io sono in attesa di Forchielli. Sei in attesa di Forchielli. Sei in attesa di Forchielli. Albertone Forchielli è ancora con noi da Singapore. Buongiorno Alberto, come va? Ciao Alino, ciao Silvia, non ti mangio. No, perché no. Mica è comunista. No, voglio bene la Silvia. Certo. Allora, c'è da dire che anche Saccomanni vuole bene un po' a tutti. L'ultima volta, caro Alberto, hai detto che lo avresti messo dove? A dare il bigliettino fuori dai CAF, per capire. Sì, no, adesso io ho un dilemma, aiutami anche tu Alino. Ecco. Io devo cambiargli nome, non so se chiamarlo Danno Manni o Sacco Danni. Sacco Danni. Hanno fatto uscire sto vademecum per pagare la mini IMU, sì, altro che vademecum, vade a fanculum, capito? C'è la gente che è impazzita. più o meno è quello che pensano molti italiani in questo momento. Voglio dire, capito? Il vademecum. Ed è una brava persona, Saccomanni. Sempre nell'ambiente di Banca Italia, l'hanno buttato in mezzo alla mischia. Poveretto, è distrutto. C'ha una faccia, c'ha una papagorgia che sembra il varano delle Galapagos ormai, capito? Deve fare un lifting. Silvia, hai mai visto un varano delle Galapagos? O anche il varano delle Comodo, poveretto, sei già perso 10 anni di vita. No, ma vi devo dire questo, Saccomanni ha pronunciato la seguente frase, vi giuro, io l'ho dovuta leggere 50 volte perché non ci credevo. Ha detto, due punti aperte virgolette, mi dispiace per quello che è accaduto agli italiani nei rapporti col fisco alla fine di quest'anno. cosa vuol dire mi dispiace con quello che è accaduto nei rapporti col fisco agli italiani, cara Silvia Brasca? C'è un modo molto... No, ieri ho visto Letta dalla Gruber e speravo che si scusasse, perché davvero quello che è successo su questi pagamenti, sulla Minimu, è incomprensibile. Secondo me davvero è un governo che deve chiedere scusa per la gente che si è messa in coda per pagare la Minimu nei giorni in cui ieri ha visto la Guardia di Finanza i numeri che ha tirato fuori sull'evasione fiscale. Quindi è un paese schizofrenico, con pensionati terrorizzati di cadere nelle more, quindi non sapevano cosa fare. E volevo sottolineare, e stimolavo in questo Forchielli, che Saccomanni ieri ha parlato da Davos. Io certo, è vero, a Davos cosa fanno Forchielli? A Davos, al World Economic Forum, tutto il Gotha, no, beh, c'è il presidente dell'Iran, ci sono tutti, insomma, cosa fanno a Davos Forchielli? Fanno delle gran chiacchiere, a parte che si paga per entrare, per cui non è che sia una gran, cioè, pagano, vanno a Davos, è un posto che sta a casa di Dio, e fanno delle gran chiacchiere, delle grandi interviste. Capito? Non è che sia una roba conclusiva. No, la forza è che c'è il Gotha del Gotha, ecco, tutti potenti della terra. Sì, ma basta pagare, capito? Non è che sia, non è che sia una roba inviti come andare a Buckingham Palace, non so se mi spiego. Ah beh, questo sì. No, capito, già vai a perdere il tempo. Devi fare 3 ore di macchina, sembra stare una cosa curiosa. ci va chi ha il tempo da perdere o chi vuole parlare sui giornali, capito? Perché poi ci fa intervistare, ci vanno i giornalisti. Per fare un po' di networking, però la gente che deve lavorare non ci va. Comunque, insomma, il varano di Comodo è lì. Ecco, ti pare normale che un ministro all'economia, o tu credi alle parole di un ministro all'economia che dice mi dispiace molto quello che è successo agli italiani col fisco in questo fine anno? Guarda, io non credo un ministro dell'economia che dice che l'economia cresce all'1% mentre invece cresce allo 0,6. È un errore del 60%, capito? È un'approssimazione del 60%, non l'accetto. Non accetto che il Ministro dell'Economia non ti dica che in realtà la disoccupazione è prevista in aumento. Non accetto un Ministro dell'Economia che non ti dica che l'anno scorso le esportazioni italiane sono calate. Ragazzi, ma l'economia mondiale è andata al 3 l'anno scorso. In una domanda interna che recede, no? Le aziende avrebbero dovuto pompare sulle esportazioni. Invece le esportazioni si sono contratte, cioè il sistema non tiene. Le esportazioni spagnole sono aumentate, Spagna ha mantenuto la sua quota del commercio mondiale da 10 anni a questa parte. Noi la stiamo perdendo, eravamo al 4, non siamo neanche al 2, cioè, voglio dire, il paese non è competitivo, non è che mi stia a dire l'1%, capito? 0,6. Silvia Brasca, hai capito? Invece di andare a Davos, stai qui, ascolta Forchielli e... Lavora, oppure non lo so cosa glielo fa fare di stare lì a prendere gli schiaffi. È stato chiamato e ha sentito il dovere di questa chiamata. Comunque non è una poltrona facile, cara Silvia Brasca, diciamo chiaramente, la poltrona di Ministero dell'Economia in Italia è davvero qualcosa. Per esempio, questa storia, ecco, un'altra cosa che mi ha fatto impazzire è la sanatoria di Equitalia. Ma è possibile? Cioè, il messaggio che arriva adesso, c'è entro il 28 febbraio, avete dimenticato di pagare il bollo dell'auto, avete dimenticato di pagare le multe, avete zero interessi fino al 28 febbraio, che si può leggere anche così. Le avete pagate in tempo diligentemente? Siete stati dei babbei perché c'era la sanatoria, se aspettavate. Ma non è un messaggio, cara Silvia, all'italiana, sempre all'italiana queste cose, cioè il concetto di una sanatoria? Vai in Svizzera a chiedere se si fa una sanatoria. Fanno delle altre cose, sono lì che aspettano, che ci aspettano, anche se le cose stanno cambiando. No, non va bene, però Equitalia, questo penso sia stato visto quello che sta succedendo sull'IMU, penso che sia stato un correttivo. Ecco, cioè dice... Ho pensato a questo, poi magari mi sbaglio, però ho pensato che ci mancava anche, e allora no, che hanno pensato, insomma, il bastone e la carota, ecco. È così, Alberto, cioè, a Singapore esistono le sanatorie se sbagli a pagare, non so, oppure in Germania, visto che vivi spesso in Germania, o negli Stati Uniti esistono le sanatorie? No, che io sappia no, ma questa, no, che io sappia, questa è un'ennesima idiotata, l'ennesimo scudo fiscale, ne hanno fatti due, capito? Chi non ha aderito ai due precedenti merita la confisca, non la sanatoria, capito? Questo è per le multe, non so, hai dimenticato di pagare il bollo auto, c'è la sanatoria, cioè, sì, c'è gente ovviamente non sono d'accordo, sono quelle manovre disperate di chi raccatta il fondo del barile, poi dopo i numeri sono sempre molto deludenti, non so, guarda, stiamo perdendo il tempo lì, non parliamo di cose più serie, ormai l'hai vista anche tu. Allora parliamo di politica. Quello è serio. No, comunque intanto voglio salutare chi mi scrive: sto andando per lavoro da Modena Rimini per pagare le tasse, mi scrive Mario, oppure ci ascolta dalla sua calda alcova Daniela, così scrive, mi ascolto la mia calda alcova. E allora, c'è stato un grande ritorno ieri, un ritorno di una persona della quale voglio chiedere un parere a voi, e che si è espressa così sul sindaco di Firenze, la persona è Beppe Grillo. No, l'Ebettino di Firenze è sentimentale, te lo ricordi chi lo... è l'Ebettino di Firenze. Adesso è Dorian Gray. Adesso da Lebetino di Firenze si riferiva a Renzi, a Dorian Gray. È tornato Beppe Grillo. Alberto, un parere su Beppe Grillo. Stai attento che quelli del Movimento 5 Stelle ti guardano. No, ma difatti voi siete tutti preoccupati dei cinesi con me. Il mio problema sono i grillini. C'è una roba, mi torturano su Twitter. Il mio problema, io non ho paura dei cinesi, ho paura dei grillini. Quelli sui social sono cattivi, Sì, beh, non, sai, l'ho già detto altre volte, non, è un inconcludente. Alla fine anche Renzi deve fare un accordo con Silvio Tauro, Migno Tauro, perché tanto è l'unica persona con cui si possa fare un accordo, perché Grillo non va bene niente. No, scusa, mi sono perso, con chi deve fare un accordo? Ma Silvio Tauro, Migno Tauro. E chi c'è con cui fare l'accordo? L'unica persona seria in Italia ormai è lui. Siccome poi c'è un grande detto nel mondo, it takes two to dance, cioè per ballare bisogna essere in due. Capito? L'unico con cui ballare è Silvio Tauro. È Silvio Tauro, capito? È inutile che ti dire con... no, le preferenze. Non ci sta lui, capito? Per cui, capito, se vogliamo incominciare un percorso di riforma elettorale, basta, capito? È inutile che stia a dire no, voglio le preferenze. Cioè, non ci sta, ha fatto le sue concessioni. Non ci sta. Berlusconi, capito? Basta. Per cui faremo le preferenze quando lui andrà, non so, all'Asinaro o ad Antigua, non lo so, dopo faremo le preferenze, ma intanto andiamo avanti, capito? Vabbè, Silvio Tauro, che fa rima con un'altra cosa, no, questa veramente non so da dove ti esce. Silvio Tauro è tutto l'orgoglio italico, capito? Dopo la debacle di Hollande, capito? Che andava nell'appartamento di un pregiudicato per non andare in camporella al Bois de Boulogne, capito? Allora a questo punto Silvio Tauro acquisisce anche la sua dignità, capito? Effettivamente un po' è così. Però, cara Silvia Brasca, ti voglio far sentire un altro Beppe Grillo sui giornalisti, no? Uno della categoria più amata dal leader del Movimento 5 Stelle. Ragazzi, sembrate Walking Dead. mi fate paura. Il lavoro. Lei non è il tuo lavoro. Estera. Non è il tuo lavoro, anche il mafioso dice faccio il mio lavoro. No, io non sono il mafioso. Mio lavoro. Io faccio il giornalista, faccio un domani. No, tu non sei un giornalista. Come no? Tu sei un impiegato per 10-20 euro che ti danno, ti sfruttano. Sei un impiegato per 10-20 euro, ti sfruttano. Hai sentito, cara Silvia? Vabbè. Cosa devo fare? Dai, fai una bella quelle difese di categoria, di qualcosa. No, ma voglio dire, si tenga quelli delle scie chimiche, non sto neanche. Guarda, ieri ci sono state due persone che hanno tirato fuori il colpettino di Stato, Beppe Grillo e diciamo Silvio Berlusconi, che sarà il prossimo tormentone dei quattro colpi di Stato. Sì, no, basta. Ma lui va a tirare ancora fuori Mani Pulite, l'avviso di garanzia di Napoli, e il governo Monti, la storia dello spread, e quindi però ieri appunto due persone hanno parlato di colpettino di Stato, Grillo Berlusconi e Grillo. Vabbè, no, io del Rubiterno non ho neanche parlato, anche se ci aprono i giornali, ancora Berlusconi nuovamente indagato, un'altra vicenda. Libero ha fatto i calcoli, dice rischia 32 anni di carcere, ma dai, vabbè, che vivendo fino a 120 ne ha 77, esce a 105 più o meno di anni, insomma, così in un calcolo molto veloce. Vabbè, andiamo a sentire il traffico, poi rientriamo. 24 mattino. No, mi domandavo una cosa, ma se il pubblico è di merda, no? Chi fa lo spettacolo? Che sarebbe la finanza, la politica, i giornalisti? Sono proprio una fogna. Ricordati che il pesce puzza dalla testa. Ci risiamo con il canone TV. Il canone TV si sa che è molto evaso e vorrei sapere perché non si decidono a metterlo nel contatore elettrico in modo che nessuno possa scapparci. L'Italicum è il nuovo sistema elettorale che viene proposto, con la quota di sbarramento mette fuori la Lega dal Parlamento. Va bene, per vedere i leghisti allora andremo al circo. Che potessimo muovere tutta una volta. Mitico Alessandro, Aurora Rosale, Vladimir Luxuria che si scornano al telefono, bellissimo. La prossima volta in una vasca piena di fango in bikini, ciao! Siamo più poco, andiamo a Roma e li prendiamo a calci in culo, tutti i senatori, così imparano a stare a sedere lì. Ma dico Milan, ma il signor Salvini che sta intervistando, ma sta rosicando parecchio con Matteo Renzi. In 15 anni che sono stati al governo loro, 10, 12, non hanno fatto un cavolo di niente. Questo in un mese sta già facendo praticamente la legge elettorale, perché tanto anche tu puoi rosicare, ma lui ci arriva a farla, la fa, stai tranquillo, stai sereno, la fa. Cooperlo! Questo era un editorialista, credo, Silvia Brasca, l'ultimo. Un editoriale. Forchielli, ci siamo sentiti quando era martedì e Cooperlo si è dimesso. Hai visto che... Sì, no, ma Cooperlo... La vera ragione, Cooperlo vampiro si è dimesso perché sul busto di Stalin ha trovato una treccia d'aglio, quella è la vera ragione. Ah, ecco. Scusa, un'altra cosa, che fine ha fatto la pecora Dolly? Chi è la pecora Dolly? Quella clonata? Beh, sì. Sarà morta. La nostra pecora Dolly. La De Girolamo è un clone di Mastel. Mamma mia, questa no, è pesante. Siamo di nuovo con le mignotte di Berlusca, beh. E la Dolly? Beh, in che senso? No, perché ha mandato a casa Josefa Idem, è qui. Ah, perché non si dimette? No, c'è settimana prossima, c'è la mozione di sfiducia, credo votino questo. Vabbè, perché dovrebbe dimettersi? Perché è un clone di Mastella, tu dici? Beh, sì, uguale. Ma in che allora, senso? Un esperimento scientifico, forse ci danno il Nobel. No, adesso no. Che poi sono alle querele e agli insulti tra De Girolamo e Mastella, proprio non si possono vedere, non so. Vabbè, comunque Cooperlo si è dimesso, poi gli ultimi giorni, perché quando ci eravamo sentiti, cara Silvia, Forchielli non aveva risparmiato anche Cooperlo, E poi vedi, track, subito, Cooperlo si è dimesso e oggi fa un'intervista a Repubblica e dice ma quale scissione, il Partito Democratico rimarrà unito, e vabbè, insomma, le solite cose di politica. Ma Renzi ce la farà, secondo te, cara Silvia? Ce la farà alla fin fine? A fare vale la palla. Ne usciranno tutti con le ossa rotte, cioè adesso la scissione, per carità, non non voglio neanche sentire la parola, ma si uscirà con le ossa rotte, insomma, perché Renzi è un terremoto, si è visto, cioè non arretra, va avanti, vediamo. Non lo so se ce la fa. Una cosa ha detto, se bisogna cambiare la legge elettorale, o la cambiano e tutti sono d'accordo, tutti, o non si cambia. Caro Forchielli, insomma, andiamo bene. Se ma è possibile in Italia mettere d'accordo? Appunto. È una cosa. Io a questo punto, capito, Renzi potrebbe anche mandare a casa il governo. Si rifanno le elezioni, poi fa il premier e poi dopo da premier fa l'accordo con Berlusconi, punto e basta. E questa è un'idea che si vocifera, no? Renzi premier, però lui continua a smentire. Però volevo chiedere questa cosa, Alberto. Ieri ho letto sui giornali che anche i cinesi, a quanto a paradisi fiscali, no? Leggevo che l'intelligenza cinese, non so chi, sono stati grande scandalo, sono stati beccati con soldi un po' ovunque, tutto il mondo e paese, mi sembra di capire. No, sono i maestri, no? Il tasso di corruzione in Cina è pazzesco, è pazzesco, per cui è una plutocrazia e la battaglia contro la corruzione di questo governo è micidiale, non è solo strumentale. Xi Jinping sta facendo veramente sul serio, perché lì poi, sai, corruzione, lì ci sono due meccanismi, uno speculazione immobiliare, sai, i terreni sono tutti dello Stato, per cui ci si mettono dentro, e l'altro è speculazione sulle borse, adesso infatti la borsa di Shanghai è chiusa alle nuove emissioni da 14 mesi, per cui lì accumulano centinaia e centinaia di miliardi. Hai capito, insomma, così si fa. No, beh, il problema comunque è bestiale in Cina, su tutti i giornali, anche i giornali, lo dice lo stesso Premier, ma questo Xi Jinping sta facendo sul serio, ma sul serio, sul serio, sul serio. Ah, quindi qualcosa magari la gente terrorizzata può cambiare. Sì, può cambiare. Adesso sono calato il lusso, cioè calo di alcolici del 15%, calo delle vendite russe del 15%, ossia la gente è terrorizzata. Sta cominciando a preoccuparsi. Vedere, no? Cosa... Caro Alberto, adesso quando ti risentiremo, torni negli Stati Uniti, cosa fai? Adesso, guarda, c'è un programma, c'è una settimana a Boston, sabato vado a Boston, poi vado a San Francisco, poi vado a Washington, poi torno a Boston. Poi vado a Berlino e poi non lo so. E poi non lo so. Vabbè, insomma, cara Silvia, noi tu cosa fai? Milano, San Siro? San Siro domenica. Io casa, qua radio. Vabbè, insomma, non fate come il governatore dell'Abruzzo, Chiodi, che pare, questa è l'accusa, abbia pagato col conto della regione, con la carta della regione, un Roma Washington alla moglie. Naturalmente, business class. Ovviamente è indagato. È indagato anche lui un po' come tutti. Vi devo salutare e ringraziare, Alberto. A presto, quando potrai. Il Parlamento ti aspetta. Grazie anche a Silvia Brasca del TG della 7. E ci risentiamo alla prossima. È tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7 e 18 minuti, eccoci a leggere i giornali e forza, c'è sempre lo schema Allegri, che è quello migliore praticato sui campi di calcio. Dai, cari italiani, che è venerdì, oggi noi parleremo di c'è un'esultanza su questa frase, è venerdì, che voi non potete vedere essendo in radio. Ma qualcuno al di là del vetro, come si suol dire, cioè nella zona della regia, ha fatto delle esultanze tipo gol del Milan. Allora,

che cosa ti ha combinato Justin Bieber? Avete sentito? Non bisogna, regola, dicono che non bisogna mai parlare male di Justin Bieber su Twitter, perché sennò le sue fan e i suoi fan, immagino più le sue fan, si scatenano e ti coprono di insulti. Ma insomma, questo ragazzino di 19 anni che ti ha combinato? È stato arrestato a Miami mentre andava a 100 all'ora, faceva una gara di macchine con una Lamborghini con degli amici, uscito da una discoteca ubriaco, fumato di marijuana con alcune pastiglie di tranquillanti e con la patente scaduta. Che cavolo, cioè qualcosa di più non poteva combinare. Droghe, alcol, così finisce la corsa delle star adolescenti. Pagina 21 della Stampa, c'è anche l'elenco di tutte le star che sono state arrestate, come gli ex ragazzi prodigio. Beh, Lindsay Lohan, 27enne, è stata fermata non so quante volte, Paris Hilton, ci sono anche la carrellata delle foto su, insomma, delle foto segnaletiche. Vabbè, ma andiamo velocemente alla conclusione, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Stravince Il Giornale con Daniela Uva, eccolo lì, push up, tacchi, orecchini, quando il fascino fa male, un'intera pagina, gli orecchini sono troppo pesanti, care signore, vi rovinate i lobi, i tacchi sono troppo alti, vi rovinate i piedi, i tanga sono troppo stretti e poco traspiranti, ci sono le infezioni, ma neanche i tanga adesso mi salvano, porca miseria, per la gioia di noi uomini, vabbè, i push up rovinano i muscoli. E la carta costa, però, anche aggiungiamoci, su Giornale Radio. 24 mattino. Le 8:19 minuti, siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, vi siete ricordati di pagare la mini IMU? Che oggi scade, l'avete già pagato, forse state andando a pagare, forse siete tra i fortunati italiani che non pagano. Beh, sappiate, se siete già arrabbiati per questo, che il ministro Saccomanni dice: chiedo scusa agli italiani per i disagi col fisco creati a fine anno. E anche il sottosegretario Baretta, da Avvenire, dice: io ho pagato 111 euro, mi è sembrato tanto anche a me effettivamente, e chiedo scusa agli italiani per questo pasticcio. E vabbè, insomma, chiedono scusa. Però, dice Baretta, abbiamo fatto risparmiare soldi sulla casa rispetto alla vecchia IMU. Ma cari italiani, qui parliamo di casa oggi in un altro senso, altra tipologia di case, le case abusive e la regione Campania, perché c'è un disegno di legge che è stato approvato al Senato, ora deve passare alla Camera per diventare legge a tutti gli effetti, e che ha fatto lanciare un grido d'allarme a più persone, dicendo: attenzione, stanno cercando di fare un ennesimo tentativo di condono mascherato per le case abusive in Campania. In realtà questo disegno di legge prevede una cosa semplice, una lista delle priorità, una lista dalla lettera A alla lettera M, che stabilisce l'ordine di abbattimento degli immobili abusivi. Cioè l'abbattimento deve avvenire prima quelli pericolosi, poi le case non ancora ultimate, poi quelle della criminalità organizzata, dai mafiosi, eccetera, lasciando per ultimo, insomma, le case del cosiddetto, per qualcuno, abusivismo di necessità. Solo che con questa lista, vi do due numeri, tanto per capire, l'anno scorso ci sono stati solo 1000 abbattimenti, perché non ci sono i soldi, di immobili abusivi, e gli immobili abusivi censiti in Campania, in alcune regioni, da abbattere sono 270.000. Con questo ritmo, 1000 all'anno, ci vorrebbero 27 anni per abbatterle tutte. Se ci fosse questa priorità, alcuni dicono, è un modo per mettere in fondo l'abusivismo di necessità e salvare queste case. Comunque ne parliamo con il senatore che è primo firmatario di questo disegno di legge, il senatore Ciro Falanga di Forza Italia. Buongiorno e benvenuto, senatore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Così come voglio salutare Roberto Della Seta, che è fondatore di Green Italia, già stato parlamentare del PD. Buongiorno Della Seta, buongiorno, e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, senatore Falanga, ci aiuti a capire perché non sarebbe un tentativo di condono mascherato, sa, mettendo in fondo alcune case che a ritmi attuali verrebbero abbattute tra 27 anni, è come dire non verranno abbattute mai. Beh, io credo che la risposta alla domanda che mi pone l'ha già data lei, perché lei ha premesso che poiché le risorse non sono sufficienti per abbattere diciamo in tempi veloci tutti gli immobili abusivi, è chiaro che si rende necessario stabilire un ordine di priorità. Non si tratta di un condono mascherato, perché il condono praticamente risolve, diciamo in qualche modo regolarizza l'immobile sotto il profilo delle concessioni amministrative. In questo caso noi ci potremmo trovare e ci siamo trovati in situazioni in cui si è abbattuta la casa del pensionato che aveva realizzato 80 metri quadrati per la propria esigenza abitativa e lasciamo in piedi l'albergo sulla spiaggia oggetto di speculazione edilizia da parte di altri soggetti. Ora è una questione di giustizia, io credo che sia giusto eliminare prima il danno più rilevante sia per l'ambiente sia per la comunità e anche per il rispetto delle leggi, rispetto ad un danno meno rilevante tra l'altro vabbè, io ovviamente ho sbagliato, chiaramente sono 270 anni, neanche 27 anni, è questo Falanga, 1000 all'anno ne abbattono più o meno l'anno scorso. Sì, d'accordo, ma questo dipende dalle risorse che vengono poste dallo Stato a disposizione di questa. Allora, tutti i soggetti che hanno interesse per la tutela, tutti coloro che hanno, come diceva lei, sollevato gridi di dolore, insomma reazioni molto anche da Lega Ambiente, e allora dovrebbero spingere perché lo Stato stanzioni dei fondi più cospicui per consentire l'abbattimento in tempi più veloci. Ma se questi sono i fondi e questi sono i numeri di immobili che si possono abbattere, come dice lei, in un anno, mi pare giusto che si abbattano prima è chiaro, visto che non si riescono, io penserei da Stato, dico, metto e trovo tutti i modi, le risorse per cercare di, a parte che voglio dire, in uno Stato normale non dovevano 270.000 immobili abusivi non dovevano neanche essere creati, però ormai purtroppo è inutile piangere sul latte versato, come si suol dire. Però le chiedo questo, senatore Falanga, secondo lei esiste il concetto di un abusivismo di necessità? Guardi, innanzitutto io devo fare ancora un'ulteriore premessa. Mentre l'ultimo condono edilizio, legge nazionale, ha beneficiato tutti i cittadini italiani che abitano nelle diverse regioni. Sì, la regione Campania no, è questo. Le do un dato. Praticamente le domande di condono edilizio dell'ultimo condono licenziato dal Parlamento è stato utilizzato nella misura del 41% dai cittadini del nord-est. No, ma questa però mi scusi senatore, questa è un'altra questione, l'affronteremo se vuole, l'abbiamo già affrontata, tanto per cui ci sono stati tentativi di riaprire i termini di condono per la sola Campania che non aveva potuto usufruire per la legge Bassolino, ma lo sappiamo. Però mi risponda alla questione se esiste un abusivismo di necessità secondo lei o no? Ma guardi, innanzitutto la Campania, i problemi bisogna affrontarli con attenzione e con approfondimento. Se noi guardiamo la Campania ha avuto, grazie a Dio, io di questo sono felice, un aumento della crescita demografica. In Campania vi sono una serie di vincoli che impediscono alle amministrazioni di rilasciare concessioni edilizie. E quindi? C'è quindi una carenza abitativa molto molto significativa, per cui una coppia che deve contrarre matrimonio vuole mettere su famiglia, mentre nel nord-est d'Italia o in altre regioni può fare una normale istanza di concessione edilizia ed ottenerla. In Campania non è possibile. E quindi che fa? Si costruisce la casa. E noi che cosa facciamo? Sradichiamo un tessuto sociale facendolo spostare in altre regioni. Bisognava che i comuni e lo Stato e le amministrazioni locali, le varie articolazioni dello Stato attrezzassero. Lei deve sapere che qui non ci sono piani regolatori da parte ho capito, ma non, ho capito, ma questo, cioè, come dire, è l'autorità, l'autorità non riesce a darsi una regola e quindi i cittadini devono arrangiarsi come vogliono. Però aspetti, mi faccia sentire, perché ha messo tanta carne al fuoco, tanto abbiamo il tempo per approfondire. Mi faccia intanto sentire su queste, su questi temi, Roberto Della Seta. Intanto, Della Seta, perché è un condono mascherato? Insomma, dice, intanto ci sono 1.000 soldi per abbattere 1.000 edifici abusivi all'anno, ce ne sono 270.000. È un condono mascherato per una ragione molto semplice: per salvare l'abusivismo edilizio esistono due strade. La strada maestra è quella del condono edilizio vero e proprio, per cui si dà la possibilità a chi ha costruito illegalmente di sanare il proprio abuso. Questa è una strada che in Italia è stata già percorsa 3 volte in maniera generalizzata, le ultime 2 volte da governi Berlusconi. Molti dei firmatari di questo disegno di legge in passato, anche nella scorsa legislatura, io ero parlamentare allora, tentarono questa strada maestra senza successo. Poi c'è una seconda strada un po' più obliqua che hanno imboccato quando hanno visto che la prima non era praticabile, ed è la strada del condono di fatto, perché appunto se si rimanda sine die la demolizione della gran parte degli abusi commessi, questo di fatto suona come una regolarizzazione, perché chi ha costruito illegalmente ha la tranquillità che per qualche decennio la sua casa illegale vuol dire, bene ricordarlo, una casa costruita senza pagare le tasse, utilizzando quasi sempre il lavoro nero, spesso affidandosi a ditte che sono, insomma, come dire, legate, collegate anche ad ambienti criminali, può stare tranquillo. Però mi scusi, Della Seta, c'è dal disegno di legge del senatore Falanga. Però le chiedo questo, mi scusi, Della Seta, non è già un condono di fatto se lo Stato ha risorse per abbattere solo 1.000 edifici all'anno? Assolutamente sì, ma su questo io trovo le argomentazioni del senatore Falanga un po' surreali. Lo Stato è lui è un parlamentare, quindi che lui si lamenti che lo Stato non mette abbastanza risorse, che lui si lamenti che lo Stato in Campania non fa fronte al disagio abitativo, tra l'altro mi risulta che lui sia un senatore campano, è assolutamente ridicolo. Lo faccia, è il suo mestiere, è pagato per questo, è pagato dai cittadini per risolvere questo tipo di problemi, per spendere le risorse dove servono e non per delle stupidaggini. Quindi si occupi di questo invece di promuovere iniziative che hanno l'unico scopo di indebolire il contrasto dell'illegalità. Io ho un unico motivo di ottimismo, ed è che questa legge alla Camera non passerà mai. Già mi risulta, ho letto che il Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Realacci, lo ha detto con chiarezza, ma già che sia stata tentata per l'ennesima volta questa strada, purtroppo insomma, la dice lunga sul modo in cui spesso una parte della nostra classe politica si occupa di problemi sociali, che sono problemi sociali rilevanti. Poi... certo, fino adesso Forza Italia, la destra, era stata sola a combattere questa battaglia, purtroppo in questo caso a Forza Italia si sono uniti anche in Senato i voti del Partito Democratico, e questo non e questo è ha creato un anche una spaccatura, ha creato dei problemi. Però, posso dire anche una cosa sull'abusivismo di necessità? Sì, certo. Allora, l'abusivismo di necessità, come sanno tutti quelli che da un po' di tempo si occupano del tema dell'abusivismo edilizio, in gran buona parte dei casi è una bufala, per rimanere in tema con la Campania, è una bufala. Allora, prendiamo un esempio, forse uno degli esempi più vistosi, quello dell'isola d'Ischia. Sì. Soltanto a Ischia, che è un territorio abbastanza circoscritto, ci sono circa 700 ingiunzioni giudiziarie a demolire, cioè 700 ordinanze a demolire che nascono da sentenze passate in giudicato. Bene, moltissimi di questi abusi sono fatti, riguardano immobili apparentemente, formalmente occupati appunto da abusivi di necessità, che in realtà sono dei prestanome. In realtà queste case abusive a Ischia, che è uno dei posti turisticamente più importanti d'Italia, vengono utilizzate per essere affittate a 1.000-2.000 euro a settimana durante la stagione turistica. Quindi questo è un grande business, altro che abusivismo di necessità. Allora, approfondiamo poi dopo la pubblicità, ma certo con il senatore Falanga, con Roberto Della Seta. Certo, gli ascoltatori ci dicono, come Andrea, ma perché costruire qui in Toscana, ci scrive da della Toscana è reato e dalle altre parti d'Italia no. Il problema è che è reato da anche dalle altre parti d'Italia. Il problema è che ha sentito ci sono risorse per abbattere solo 1000 case abusive all'anno e non le 270.000 che sono censite, che per le quali c'è già un decreto di ingiunzione di abbattimento. E la domanda da cui voglio ripartire sarà questa: ma perché non fare, senatore Falanga, e tra un attimo lo riprendiamo, un disegno di legge per trovare in tutti i modi le risorse possibili per fare in modo che da 1000 abbattimenti all'anno ce ne siano 100.000 all'anno, così in 2 o 3 anni risolviamo la questione? Tra poco 24 mattino. Eccoci qui col senatore Ciro Falanga di Forza Italia e con Roberto Della Seta. Stiamo parlando di questo disegno di legge, primo firmatario lo stesso senatore Falanga. Insomma, senatore, lei dice non ci sono i piani regolatori e quindi una coppietta si deve fare una casa per vivere, non ci sono i soldi e quindi gli abbattimenti, facciamo una lista. Ma lo Stato, le dice Della Seta, è lei, cioè si impegni su questo, cioè a dire troviamo i soldi per abbattere le 270.000 case, non... Certo, dice bene Della Seta, però io pongo una domanda io a Della Seta. Della Seta ha detto Falanga è lui lo Stato, è lui in Parlamento. Io ricordo a Della Seta che lui è stato parlamentare nella passata legislatura, quando i miei colleghi di Forza Italia tentavano il condono della strada maestra, del condono edilizio. Se il tema stava così a cuore a Della Seta e a Realacci e ad altri, perché loro che erano lo Stato in quel momento non hanno loro provveduto a far sì che lo Stato avesse risorse per abbattere questo? Sì, sì, giustamente Della Seta. Allora io proprio perché mi sentivo lo Stato nella scorsa legislatura ho intanto contribuito insieme ad altri a impedire almeno 4 o 5 volte, non ricordo esattamente il numero, i tentativi per fare un nuovo condono edilizio in Italia, perché bisogna ricordare che queste leggi sono leggi nazionali, sì, certo, quindi non valgono solo in Campania, valgono in tutta Italia. Bene, quindi da questo punto di vista ho fatto bene il mio mestiere di Stato. Ho cercato di mettere a disposizione più risorse economiche della magistratura per eseguire gli abbattimenti, peraltro ricordo che negli ultimi 2 o 3 anni la quantità di demolizioni eseguite dalla magistratura è decuplicata, perché le 1000 demolizioni realizzate l'anno scorso, che certamente sono poche, fino a qualche anno prima erano poche decine. Quindi, proprio un disastro, quindi prima. Un assoluto disastro. Quindi io il mio mestiere di Stato l'ho fatto bene. Temo non si possa dire la stessa cosa del senatore Falanga. Ma poi tra l'altro perché dobbiamo pagarle noi? Voi non sapete quanti arrivano a chiederci via SMS, ma dobbiamo pure pagare noi Stato, quindi noi cittadini, le demolizioni delle case abusive, quindi fatte abusivamente, e poi il conto a tutti. Sentiamo gli ascoltatori. Franco da Torino. Franco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare una domanda al senatore Falanga, anche perché ritengo inconcepibile che un senatore della Repubblica faccia una dichiarazione come quella che ha fatto prima, cioè dichiarare che nel momento in cui una coppia vuole mettere su famiglia e non ha da parte dello Stato, da parte dei comuni, piani regolatori, la possibilità di accedere a un'edilizia agevolata e decide di mettersi su e di costruirsi una casa abusiva. No, più che edilizia agevolata, anche proprio la possibilità di costruire. A disposizione. Sarebbe un po' come per le persone che non hanno lavoro, visto che non ci sono possibilità di trovare un impiego, io mi posso tranquillamente dedicare a quella che è la criminalità organizzata, con un doppio danno. Sì. Chi ha costruito abusivamente non ha pagato tutto quello che riguarda gli oneri, certo, tutto quello che non paga la minimu, credo che non paghi la minimu. Ma per le minimu sono delle fesserie in confronto a tutto quello che riguardano le attività in merito all'urbanizzazione, agli attacchi fognari, alla rete elettrica. In più, come ha detto appena adesso, noi dobbiamo farci carico di quello che non è stato pagato e di abbatterlo. Soldi no, ma è chiaro, Franco, stia con noi, che così Falanga le risponde, Sparanga risponde all'ascoltatore che dice: come è possibile? Innanzitutto, non è esatto che le spese per la demolizione sono a carico dello Stato. Perché, e chi le paga? Perché sono a carico del soggetto condannato, il quale viene condannato all'abbattimento del manufatto. lo Stato anticipa queste somme e poi si rivale sul cittadino. Quindi la regola è che comunque le spese sono a carico di chi commesso. Vabbè, diciamo all'italiana, caro senatore, vada a prendergli i soldi quelli che gli abbattiamo. C'è un dato però. Molte procure della Repubblica in Campania, procura di Santa Maria Capua Vetere, le varie procure di Salerno, hanno adottato lo stesso criterio, o quantomeno più o meno simile criterio, di ordine di abbattimento nel loro territorio di competenza. Cioè lo stesso ordine che lei prevede per legge. Però scusi, lei deve... Franco da Torino le poneva un'altra domanda, la domanda sul fatto come fa un senatore a dire, siccome non c'è un piano regolatore che permetta di costruire una coppietta, che fa? Deve arrangiarsi. Lo Stato, vorrei dire al radioascoltatore di Torino, lo Stato non deve essere soltanto opprimente, deve essere efficiente. Allora è come il padre di famiglia che non provvede al mantenimento dei propri figli e poi pretende l'autorevolezza di fissare delle regole di vita. Ho capito, ma quindi allora, il cittadino, siccome lo Stato non è amichevole, si costruisce una casa si deve arrangiare. Cioè il messaggio è pericoloso, a dire. Il messaggio non è pericoloso, perché di messaggi del genere dal nord d'Italia, molto più pericolosi, ne abbiamo avuti tantissimi. E quali? Ma lei ricorda i segnali che venivano dalla Lega quando c'era la opposizione della Lega su determinate tasse e si sollecitava la popolazione a non pagarle? Quella non era una violazione di una legge del nostro Stato, ma della Seta, voglio dire a Della Seta, che lui mi ha detto che il suo lavoro l'ha fatto bene, e questi sono i risultati. Io credo che il lavoro non l'abbia fatto bene lui, come non lo posso far bene io. Ma qui non è però un'accusa tra, voglio dire, Della Seta. Adesso non usciamo dalla questione di rinfacciarsi il proprio rispettivo lavoro parlamentare, poi però Della Seta, che la questione è, ma tra l'altro come fanno ad avere gli allacci, le utenze, queste persone? Ma come fa una casa abusiva avere gli allacci? Purtroppo in Campania, e non solo in Campania, in Sicilia, in Calabria, in generale nelle regioni meridionali, non solo ma prevalentemente, è nata in questi decenni una economia del mattone illegale che consente appunto di allacciare le case abusive in nero alla rete, che consente di prelevare l'acqua. Ma devi andare al comune, cioè voglio dire. Questo si sa. Allora, è un po', come dire, discutibile questa immagine che propone il senatore Falanga della coppietta, che poverina, siccome non ha modo di costruirsi una casa legalmente, se la costruisce illegalmente. Stiamo parlando di un business illegale che in molti casi è un business criminale, che vede, ripeto, all'opera l'ecomafia, la criminalità organizzata, che utilizza dei prestanome, e quindi, ripeto, anche il tema dell'abusivismo di necessità perde gran parte della sua fondatezza. Quindi bisogna decidere se questo fenomeno di illegalità, purtroppo ormai molto diffusa, si calcola che almeno un terzo di tutte le case costruite nel sud negli ultimi decenni sia illegale. Se questo problema, se questo fenomeno sia una piaga da sconfiggere ad ogni costo, dopo 3 condoni generalizzati, oppure sia una situazione con cui scendere a patti. La soluzione proposta dai firmatari di questo disegno di legge, da chi l'ha votato, è di scendere a patti con questa illegalità. Insomma, è evidente, sarebbe come dire che siccome il furto con destrezza è un po' meno grave del furto con scasso, allora facciamo una legge dicendo che vabbè, il magistrato può chiudere un occhio nei confronti dei furti con destrezza e concentrarsi soltanto sugli altri. È assolutamente ridicolo. D'altra parte c'è da dire che finché non si trovano i soldi da mettere per l'abbattimento di queste case, il senatore Falanga in un certo senso anche su questo almeno un pochino ragione, a dire: ma voi discutete, ma se non ci sono i soldi e lo Stato non mette i soldi, già succede il condono di fatto. Quindi io ho solo stilato una lista che già in procura eseguono e seguono per dare un ordine, dovendo scegliere 1000 abbattimenti all'anno, perché i soldi poi finiscono. Il traffico e poi ne entriamo. Allora, Michele da Napoli, ascoltatori, Michele da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Due cose molto veloci. La prima, io non capisco perché ci si ribelli e si gridi allo scandalo per condoni edilizi, per condoni fiscali o quant'altro, e poi indulto e amnistie sembrano quasi un dovere. Detto questo, lasciamo perdere. Io vorrei fare un'associazione in parallelismo: a nessuno tocchi Caino, nessuno tocchi Abele. Vabbè, lasciamo perdere, Abele è già stato toccato, quindi si frega. Vabbè, ma parli di abusivismo. Comunque non c'entra con l'abusivismo. Per l'abusivismo io voglio capire una cosa: è mai possibile che si faccia tutto questo di abbattimento o quant'altro e nessuno costringa i comuni che sono inadempienti da 30 anni a fare i piani regolatori? Uno straccio di piani regolatori. Ma certo, ma infatti questa è la questione. Ma perché non li facciamo abbattere in danno ai comuni? Dove erano gli amministratori comunali quando sono stati? Ma è questo, cioè è quello che ho detto all'inizio. Ma se c'è, cioè, voglio dire, 270.000 case abusive, ma non dovevano essere costruite, questo è chiaro. Però ormai questa è la situazione che uno si trova a dover gestire. Che deve fare? Guardare al passato? Ai noi è impossibile. Francesco da Teramo, buongiorno. Buongiorno. Franco da Torino ha, diciamo, anticipato un pochettino quello che volevo dire io, il fatto della costrizione alle ditte costruttrici e alla persona stessa che ha costruito quella casa dell'abbattimento. E che abbiamo scoperto che succede dal senatore Falanga, cioè viene, cioè anticipa lo Stato, ma poi gli si chiedono i soldi a poi vai a recuperare. Sì, e poi si creano le cartelle esattoriali che non vengono mai recuperate. Esattamente. Perciò, allora, a questo punto c'è una costrizione di fatto, ovvero sia cercare di dare l'ordine imperativo di demolire entro una tale data. Se non succede, si confiscano tutti i beni della persona e dell'impresa costruttrice che ha fatto questa cosa. Addirittura, ma magari è stata fatta in nero, quindi sa, va a capire chi l'ha costruita la casa. Magari uno se l'è fatta, magari l'ha fatta in nero e quindi non ci sono documenti. Non lo so. Poi uno la confisca, che fa? Uno scrive via mail: confisca, lo Stato confischi queste cose e le rivenda. Ma come, lo Stato vende e lucra su una cosa che è abusiva e quindi è fuori legge? Ma dai, è una situazione. Io dico solo, nel ringraziare Roberto Della Seta e ringraziare il senatore Ciro Falanga, poi torneremo su questo tema. Speriamo che nessuno in Germania ascolti una trasmissione del genere, o in Svizzera. In Svizzera ci ascoltano, mannaggia, perché sembra una situazione un po' surreale. Io voglio chiudere questa puntata salutando il sindaco di Bonporto in provincia di Modena, sindaco Alberto Borghi. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Perché io ho raccolto, devo dire anch'io con ritardo, mea culpa, l'appello, le mail, i messaggi sdegnati delle persone del modenese che da giorni ci dicono: ma com'è possibile? Pure il New York Times scrive dell'alluvione che c'è stata, soprattutto a Bonporto, è una delle zone più colpite, ma non solo. E i mezzi di informazione italiani sembra che ci abbiano dimenticati, non raccontano nulla. Com'è la situazione? Ce la descriva purtroppo nei termini negativi a Bonporto per l'ultima alluvione, sindaco. Certo, la situazione, noi partiamo da un territorio che tenga presente 39 chilometri quadrati e il 60% del territorio è stato allagato. Noi siamo nel punto più critico d'Italia come nodo idraulico, il nodo idraulico di Modena. Chi conosce questa tematica lo sa perfettamente, dove i fiumi Secchia e Panaro si incontrano, cioè si avvicinano, e nel mezzo c'è il canale Naviglio. Canale Naviglio che era l'accesso alla città di Modena quando ancora non erano le strade. Da lì appunto il Secchia ha rotto l'argine domenica mattina e l'acqua da Secchia ha totalmente invaso le campagne verso Bonporto, ha riempito il canale Naviglio, ha riempito le casse di espansione del canale Naviglio, ha tracimato verso il Panaro ed ha rimbalzato all'interno della città. Cioè il 60% del territorio è allagato, ci sono quante persone sfollate ancora non sono nelle loro case? Dunque, ad oggi sono rimaste solo 1300, perché noi domenica pomeriggio abbiamo evacuato 7000 persone. Abbiamo dato l'allarme nell'abitato nel centro di Bonporto, nelle frazioni di Gorghetto, San Michele e Solara. Queste pian piano le abbiamo fatte rientrare nel corso di questi giorni. Rimane il centro di Bonporto, dove ancora è presente l'acqua. Da ieri abbiamo tagliato l'argine del canale Naviglio perché il centro di Bonporto, che è chiuso fra gli argini del canale e l'argine del fiume Panaro, fa da conca e quindi l'acqua deve essere fisicamente... Ma è chiaro, ma vedete, conta ancora 1300 famiglie italiane, 1300 persone sfollate, 7000 erano state evacuate domenica solo a Bonporto, immagino i danni anche per le aziende. Sindaco, le chiedo che effetto le fa proprio a vedere che la politica discute con grandi paginate, grandi tensioni sulla legge elettorale e voi dite probabilmente ai cittadini di Bonporto, insomma, vabbè, è importante la legge elettorale, però magari ci date una mano. No, cioè... io devo dire che alcuni ministri hanno chiamato fin dal primo momento. Oggi c'è una riunione importante del Consiglio dei Ministri dove si deciderà appunto sullo stato di calamità. Io spero veramente che l'intervento e l'idea di Vasco Errani che porterà sul tavolo sia approvata, perché ci consentirà veramente di trovare gli strumenti utili per ripartire immediatamente. I cittadini di Bonporto, questa è la terza alluvione dagli anni 60, sempre lo stesso metodo, l'unica volta però questa che il Secchia invade la cittadina di Bonporto, è sempre stato il Panaro che nelle sue esondazioni appunto arrivava fino al centro di Bonporto. Quindi capite bene che domenica mattina, quando si è rotto l'argine del Secchia, un muro di 7 metri d'acqua per ore ha continuato ad uscire per un varco di circa 80 metri. Per ore. Insomma. Quindi non era possibile arrestare questo flusso d'acqua, avevamo l'esercito, la protezione civile, quando pensavamo un intervento era già troppo tardi perché l'acqua, ecco che contemporaneamente casa per casa suonando abbiamo evacuato. Chiaro che gente vuole rimanere anche in casa, a volte lì non puoi e lì sbaglia, niente. Certo, però il rischio c'è. Senta, ma non ha fatto neanche effetto le polemiche di molti che mi hanno scritto, ma come dire, ma sul New York Times c'era questa notizia, sui giornali italiani sì, è riuscito da ieri, poi oggi si affaccia qualcosa. Cosa, ma ha notato una certa disinteresse anche dei mezzi di informazione. Lo dica pure. I cittadini sono molto arrabbiati su questo. Io quello che ho fatto è, poi ho visto che un po' tantissimi cittadini usano la mia pagina Facebook per aggiornarsi continuamente, perché ho fatto la scelta minuto per minuto di tenerli aggiornati sulle cose che andavano, su quelle che non andavano, appunto anche di notte a qualsiasi ora, proprio per dire io sono lì e voi siete con me. E questo devo dire che nel mio comune c'è un clima diverso, però c'è un clima di rabbia verso questo, si sentono come trascurati, abbandonati. Io ho detto però oggi non è il tempo delle polemiche, è il tempo per arrivare presto alla risoluzione del problema e ritorno in casa e al censimento danni per poi riprendere questo la certamente. Vita di tutti i giorni. Allora, ovviamente tanti in bocca al lupo e grazie ad Alberto Borghi, sindaco di Bonporto in provincia di Modena, ecco il quale ha voluto chiudere questa puntata e questa settimana di 24 mattino. Oggi vedremo se in consiglio dei ministri c'è questo stato di calamità, insomma arrivano anche soldi per gestire questa situazione. Ci fermiamo qui, potete tutto riascoltare anche sul sito radio24.it e i ringraziamenti sono come sempre a Miriam Lucchetti in redazione con Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Mi hanno detto che settimana prossima non c'è sto lassista, sì, manda gli alpini, vai a farvi sboccia. Sono anche sul sito Twitter Alino Milan, vi lascio agli alpini. A lunedì. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.